Mare, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Legge elettorale regionale, cominciato l'esame in commissione, soglia per l'elezione dei sindaci al primo turno e terzo mandato, le modifiche principali. Domani Giorgia Meloni a Pordenone, intensa giornata per le forze dell'ordine alla vigilia della visita istituzionale. Appello per il silo, su un comitato si rivolge al presidente Mattarella che ad aprile sarà a Trieste. A Udine si analizzano le dinamiche geopolitiche e geoeconomiche di oggi, al via la seconda edizione dei dialoghi. Sostenibilità delle imprese e delle produzioni, un laboratorio di consulenza per i manager, lo presiede l'OGS. L'eredità di Franco Basaglia e le nuove frontiere della psichiatria. Nostra intervista con Mario Colucci. Le 12:31 minuti, buongiorno ancora da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Questa mattina in commissione consiliare è cominciato il vaglio del disegno di legge della giunta regionale che fissa la data delle prossime elezioni comunali, ma anche importanti modifiche come quella del quorum al 40% per l'elezione dei sindaci al primo turno. La norma nel suo complesso è al centro di una discussione all'interno della stessa maggioranza. Arriva in Consiglio regionale la riforma elettorale che prevede due modifiche sostanziali. La prima, l'abbassamento della soglia del ballottaggio alle comunali per l'elezione del sindaco dal 50 al 40%. La seconda riguarda l'estensione del terzo mandato consecutivo anche per i comuni tra i 5 e i 15.000 abitanti, una norma già prevista per quelli sotto i 5.000, mentre sotto i 1.000 non ci sono limiti di mandati. La meno controversa è quest'ultima proposta, che ricalca quanto stabilito a livello nazionale, peraltro. In commissione è stata molto più discussa invece l'altra questione, quella del ballottaggio per i sindaci. Con la soglia del 40% al primo turno, per esempio, non si sarebbe andati al ballottaggio nelle ultime tornate di Trieste, Udine e Gorizia. In tutti questi casi il centrodestra avrebbe trionfato subito, cosa che poi effettivamente è avvenuta al secondo turno, con l'eccezione di Udine lo scorso anno, dove De Toni ha battuto Fontanini con meno voti di quelli ottenuti dallo stesso Fontanini al primo turno, fanno notare dal centrodestra, secondo cui dunque questa misura rispecchia meglio la volontà popolare. Tra le critiche della minoranza c'è il rischio di un calo della partecipazione dei cittadini. L'opposizione contesta poi quanto scritto nella relazione del disegno di legge secondo cui lo scopo della norma è risparmio di spesa. Il limite del 40% non è una novità assoluta, ma è poco diffusa. Esiste nei comuni della Sicilia e per l'elezione del presidente della regione toscana. Ad agitare le acque c'è poi la possibilità che la maggioranza, che domani è un vertice in merito, possa decretare un allineamento delle elezioni comunali che potrebbe comportare per alcune amministrazioni come quella di Pordenone una consigliatura più lunga del normale. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. I cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia che intendono esercitare il proprio diritto di voto per eleggere i membri spettanti all'Italia del nuovo Parlamento Europeo in occasione delle elezioni dell'8 al 9 giugno 2024 devono chiedere di essere iscritti ad un'apposita lista elettorale aggiuntiva. La domanda va presentata entro l'11 marzo, 90 giorni prima dell'elezione, al proprio comune di residenza. Coloro che sono già iscritti alla lista aggiuntiva dalle elezioni europee del 2019 e che non hanno revocato l'iscrizione non devono presentare una nuova domanda. La domanda va compilata e firmata con allegata la copia di un documento di identità valido e consegnata al comune di residenza a mano tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per posta elettronica. Domani la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà a Pordenone per un appuntamento istituzionale, una visita alla fiera. Intenso il lavoro delle forze dell'ordine alla vigilia anche per le concomitanti manifestazioni che sono state organizzate in città in occasione dell'8 marzo. Ultimi sopralluoghi in città per la visita di domani della Presidente del Consiglio a Pordenone. Giorgia Meloni sarà al Teatro Verdi per la firma dell'accordo per il Fondo di Sviluppo e Coesione con il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e i ministri Raffaele Fitto e Luca Ceriani. Inizio della cerimonia alle 15. La Presidente si sposterà poi in fiera per la visita alla manifestazione Orto Giardino prevista per le 16. Il Prefetto di Pordenone, Natalino Domenico Manno. Abbiamo già definito nei minimi dettagli le misure organizzative, di sicurezza, di viabilità e di cerimoniale. Oggi siamo qui con la Presidenza del Consiglio per definire gli ultimi aspetti, ma ormai siamo addirittura d'arrivo. Il Friuli e la città di Pordenone sono lieti di accogliere la Presidente del Consiglio e noi siamo felici di questo momento storico per la città e per tutto il territorio regionale. Per garantire l'ordine pubblico è in arrivo anche personale di rinforzo. in città sono previste manifestazioni di diversi comitati e associazioni. Ancora il prefetto. Ci saranno delle manifestazioni che verranno autorizzate, queste manifestazioni si svolgeranno lontano dalle aree interdette, dalla zona rossa, e quindi è chiaro che bisogna garantire il diritto di manifestare liberamente, ma naturalmente con delle prescrizioni e con dei limiti per garantire una cornice di sicurezza adeguata allo svolgimento della cerimonia. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. La questione dei migranti al Silos di Trieste. Un comitato ha redatto un appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà in città ad aprile per ricevere insieme all'ex Presidente sloveno Borut Pahor la laurea honoris causa dell'Università di Trieste. L'appello, per dare una sistemazione dignitosa ai richiedenti asilo esclusi dall'accoglienza, è stato illustrato questa mattina al circolo della stampa dai promotori. Tra loro l'avvocato Gianfranco Carbone. Sentiamolo. L'iniziativa di fatto come è nata? È nata parlando con un paio di amici, nel senso noi non abbiamo né incarichi politici, né siamo, come dire, dirigenti di nessun partito, di nessun movimento, eccetera. Ognuno di noi c'era una sua storia nel passato, e parlando tra di noi ci siamo detti: ma non è possibile che in una città come Trieste, che ha mille aspirazioni anche di rinnovamento, che è diventata una città turistica sempre più bella, eccetera, abbia nel centro della città, dietro la stazione, una specie di discarica sociale che è francamente intollerabile. Cosa ci aspettiamo? In realtà quello che viene è ben venga, nel senso che questa situazione diventi, come dire, è conosciuta a livello nazionale, e chi deve e può intervenire faccia qualcosa per trovare una soluzione che veramente sta diventando urgentissima. Il Presidente della Repubblica è la persona giusta? Per l'amor di Dio, il Presidente della Repubblica, noi non ci possiamo permettere di indicare al Presidente della Repubblica cosa fare e come valutare. È un riferimento, il più alto riferimento istituzionale di questo Paese, e poi ovviamente sarà lui, il suo staff, valuteranno. Insomma, noi più attenzione si crea per cercare di smuovere una situazione che è diventata oggetto di polemica politica dell'uno nei confronti dell'altro, a noi interessa solo che si risolva il problema, non interessa mettere la bandiera di un partito su una soluzione rispetto ad un altro. A Udine oggi e domani gli Open Dialogues for the Future, la due giorni organizzata dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine, che analizza le dinamiche geopolitiche e geoeconomiche che stiamo attraversando. Il servizio. È un momento di trasformazione della geopolitica mondiale, cambiano le dinamiche di forza dei vari paesi e le guerre ridisegnano le rotte economiche, impattando in modo significativo sugli approvvigionamenti. Dialoghi aperti a Udine con relatori internazionali che si alternano per due giorni, cercando di analizzare la situazione mondiale e i riflessi sulla realtà italiana e del Friuli Venezia Giulia. Il forum, ideato dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine, si tiene alla Sala Valduga, dove il presidente Da Pozzo ha aperto i lavori prima di sottolineare che le nuove rotte delle navi costrette a circumnavigare l'Africa si stanno già riflettendo in modo negativo sulle aziende friulane, delineando in futuro una possibile nuova filiera dei prodotti. Oggi la giornata di discussione ha tenuto i riflettori accesi sulle dinamiche del nuovo ordine mondiale, per concentrarsi poi sul ruolo dell'Europa. Tra gli interventi, quello di Arduino Paniccia, di Asce, e Germano Dottori, l'AIMS. Nel pomeriggio il forum si trasferisce alla Fondazione Friuli per parlare delle nuove prospettive delle economia globale tra tassi e nuove misure protezionistiche. Domani al Castello di Udine saranno gli Stati Uniti al centro del dibattito, con un focus sui rapporti economici con il Friuli Venezia Giulia e una lectio magistralis del giornalista e saggista Federico Rampini. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Altri 13 dipendenti della Flex di Trieste sono stati reintegrati al lavoro con una sentenza del giudice per il lavoro Paolo Ancora arrivata ieri. Lo ha annunciato in una nota al sindacato USB, spiegando che questa sentenza conferma la linea di giudizio di quella precedente, sempre al Tribunale del Lavoro di Trieste, pronunciata dalla giudice Michela Bortolami nel novembre 2023. Anche in questo caso il giudice ha riscontrato la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con Flex e non con l'agenzia di somministrazione con cui i lavoratori erano a contratto, e ha ordinato la reintegra dei ricorrenti, risarcendo il danno e condannando l'azienda alle spese di giudizio. La vicenda era iniziata a ottobre 2022, quando l'azienda che produce accessori e componentistica elettrica ed elettronica aveva deciso il licenziamento di 60 lavoratori somministrati. Queste sentenze scrivono una nuova pagina della giurisprudenza sulla questione dello staff leasing, in particolare su quelle somministrazioni monocommittente per lunghi periodi, commenta il sindacato di base, che sta già valutando l'applicabilità della norma a settori analoghi, perché, si legge nel comunicato, la cosiddetta flessibilità ha di fatto creato classi di lavoratori precari e facilmente ricattabili. Le notizie di cronaca: si era inventato un falso pestaggio dopo essere stato a sua volta l'autore di un'aggressione. Da qui le indagini che hanno fatto chiarezza su una rissa in via Poscolle a Udine. Sono 4 le persone indagate per rissa aggravata, nei confronti delle quali è stato avviato un procedimento per l'emissione del DASPO, unica misura di prevenzione applicabile per questo genere di reato. La Polizia di Stato di Udine, dopo una lunga attività di analisi necessaria a chiarire le modalità in cui si sono svolti i fatti, attraverso un'attenta analisi delle immagini estrapolate dalle telecamere comunali e degli esercizi commerciali messe a disposizione degli inquirenti, ha permesso di acquisire elementi utili a qualificare l'accaduto non come aggressione ma bensì per rissa. Per tale reato sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Al momento un cittadino udinese e 3 giovani stranieri. I fatti riguardano l'episodio della presunta aggressione ai danni di un italiano avvenuto lo scorso 16 febbraio in via Poscolle. Secondo la denuncia, un automobilista sarebbe stato aggredito a calci e pugni tra via Poscolle e via del Gelso. L'uomo, un 50enne, avrebbe riferito di essere stato preso di mira da un gruppo di giovani, presumibilmente di origine straniera, dopo aver parcheggiato l'auto. Sarebbe stato aggredito, secondo la sua denuncia, gli aggressori si sarebbero serviti anche di bicchieri e bottiglie per colpirlo. A distanza di 20 giorni, quella denuncia, che tanto clamore e allarme aveva destato, grazie all'operato della Polizia di Stato, si è dimostrato molto diversa da come era stata raccontata. Ovvero, l'uomo non era stato aggredito, ma aveva lui innescato la rissa. Udine, Giovanni Taormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Carabinieri della stazione di Aviano hanno denunciato 3 persone, 2 donne di 48 e 23 anni e un uomo di 24, che nel mese di febbraio hanno commesso un furto di cosmetici per 1.300 euro in un supermercato. I 3 romeni provenienti dall'Abruzzo avevano diversi precedenti per furto, in special modo ai danni di negozi di cosmetici, ed erano giunti ad Aviano con una macchina a noleggio intestata a un cittadino straniero senza fissa dimora in Italia. Sono stati notati dai carabinieri, che hanno interpellato i responsabili di alcuni negozi per sapere di eventuali ammanchi. Il gestore del supermercato ha messo a quel punto a fuoco qualche vuoto di troppo sugli scaffali e la successiva visione delle registrazioni video del circuito interno ha permesso di individuare i responsabili. Nell'ambito del ciclo di conferenze «Dalla pena che non sia solo pena, qualcosa di nuovo sul fronte carcere», organizzata dall'Università di Udine, oggi alle 18 a Palazzo di Toppo Wasserman, sede della Scuola Superiore dell'Ateneo Friulano, è in programma un incontro dedicato al tema dell'ergastolo. La professoressa Natalia Rombi, che abbiamo intervistato, modererà un dibattito tra il garante dei detenuti del comune di Udine, Franco Corleone, e l'ex ergastolano Carmelo Musumeci. È una persona che ha fatto un percorso lungo, una carcerazione lunga, e che è riuscito, grazie a una sentenza della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la possibilità, anche nei casi di collaborazione impossibile, di accedere a determinati benefici, di riacquistare quote di libertà. È noto anche per aver pubblicato molti libri che trattano appunto della sua storia personale. Mi pareva interessante sentire dalla voce di una persona che ha vissuto appunto un'esperienza carceraria di questo tipo che cos'è il carcere e che cosa comporta. Musumeci parlerà di un'esperienza di carcere prolungato, in questo caso l'ergastolo, ma ci sono anche 1.000 altri problemi che hanno le carceri italiane. L'ultima denuncia è arrivata dal direttore del carcere di Trieste pochi giorni fa, soprattutto legata al sovraffollamento. In generale sarà anche l'occasione per discutere su quelle che sono le condizioni di vita all'interno degli istituti di pena e su quanto ancora siamo lontani dal riconoscere tutela ai diritti che i ristretti hanno diritto di vedersi riconosciuti. Lui porterà l'esperienza di una detenzione dura, al limite appunto del rispetto dei diritti fondamentali. Questo ciclo di incontri come si inserisce nel programma di studi della scuola superiore e dell'università che li ha organizzati? Gli incontri hanno contenuti diversi che vanno nella direzione di approfondire il discorso tema e carcere e tutela dei diritti. Come è tipico della scuola superiore, si cercano di affrontare tematiche importanti in modo trasversale. I temi dell'ambiente e della scienza, l'osservatorio geofisico sperimentale sovrintende un laboratorio che a Trieste si mette al servizio delle imprese per valutare la sostenibilità delle nuove attività. Un laboratorio multidisciplinare presieduto dall'OGS sulla sostenibilità nei settori cruciali come il cambiamento climatico, l'alimentazione, l'intelligenza artificiale, sfide gestite da scienziati come il climatologo Filippo Giorgi o genetisti come Michele Morgante, ma anche da umanisti e soprattutto da giovani ricercatori. In un periodo in cui le attività umane costituiscono sempre più un fattore di rischio per il pianeta, appare fondamentale il ruolo delle metodologie scientifiche nel supportare i manager industriali, gli imprenditori e i politici. Stefano Fantoni, presidente della Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà delle Scienze. I cambiamenti climatici naturalmente è un tema formidabile, sappiamo tutti quanto siamo sottoposti a questo problema e quanto l'uomo, insomma, quindi si dice che siamo nell'antropocene, quindi quanto l'uomo ha fatto e non fatto per evitare che questo succeda. Però tutto questo ha bisogno di un'analisi con dati, una massa di dati enorme, persone che sono capaci di fare statistiche e quant'altro. E un'eredità di ESOF è certamente il Big Science Business Forum che si terrà a Trieste a ottobre. Un momento di grande rilevanza, insomma, io dico che questo è la firma vera e propria di un matrimonio a questo punto tra scienza e industria. Io quando ero un giovane studente, industria e scienza non si erano nemmeno molto simpatici, poi è nata una simpatia, poi un fidanzamento, adesso c'è il matrimonio. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il tempo alle 12.47, cielo in genere variabile su tutta la regione, queste sono le temperature delle 11, a Trieste e Udine 12.5 gradi, a Gorizia 13, a Pordenone 11 gradi, a Tolmezzo 11 gradi, a Forni di Sopra 7.5 gradi, a Tarvisio 5, a Piancavallo 3.5 gradi, a Sappada 2.5, sul Monte Zoncolan 0.5 gradi sotto lo zero, sul Monte Lussari meno 2 gradi, sulla costa a Lignano 13 gradi, a Grado 12. Previsioni a cura dell'ARPA, nel pomeriggio avremo cielo in genere variabile con locale nuvolosità più consistente, possibile qualche rovescio e precipitazione sparsa, in genere debole o moderata, con quota neve localmente fino a 800 mm circa. Sul Carso e a Trieste in serata soffierà borino o bora moderata. Lunedì ricorre il centenario della nascita di Franco Basaglia, un uomo che ha rivoluzionato la psichiatria e rotto gli schemi, come racconta nel suo nuovo libro lo psichiatra Mario Colucci, che al metodo basagliano ha dedicato la sua vita professionale. Questa mattina a Buongiorno Regione Colucci ha spiegato come Basaglia sia stato un punto di riferimento anche fuori da Trieste e dal ristretto ambito della cura della salute mentale e di che cosa ci sarebbe bisogno oggi per migliorare in questo campo. Ma al di là di Trieste, diciamo che Basaglia è molto più conosciuto spesso in ambienti al di fuori, diciamo, dell'ambiente psichiatrico. Le scienze sociali si sono occupate tantissimo di Basaglia e a livello internazionale sicuramente l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne parla. Altresì, a livello della formazione, soprattutto formazione universitaria, Basaglia rischia di essere solo colui che ha promosso, diciamo, la legge 180. Non si vede il portato invece di un intellettuale che ha saputo costruire una cultura critica. Cultura critica significa uscire anche da quelli che sono i binari della psichiatria, della clinica psichiatrica tradizionale, e andare verso una clinica, io la definisco, del legame sociale, cioè di come il soggetto all'interno di una comunità costruisce il suo star bene e diventa protagonista della sua salute. Noi dobbiamo ricostruire all'interno di una comunità di appartenenza quella che è la cittadinanza della persona. Franco Basaglia potrebbe essere proprio un antidoto all'eccessiva burocrazia, proprio perché ci insegna a essere un po' meno tecnici, un po' meno protocollari, e invece andare alla radice, alla sostanza concreta delle cose. Negli ultimi 10 anni sono venuti più di 5.000 persone a Trieste per vedere quello che succede. Beh, lo fanno non solo per la figura di Basaglia, ma lo fanno anche perché probabilmente stiamo cercando di creare qualcosa che va un po' al di là del protocollo stretto sanitario. Questo non è facile, ma ci si prova. Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Slovenia affrontano insieme la sfida comune dell'invecchiamento della popolazione in area transfrontaliera. 15 partner guidati dalla cooperativa Itaca e uniti per rafforzare la cooperazione e la governance dei processi decisionali pubblico-privati tra istituzioni e operatori chiave dei servizi sociosanitari per la cura dell'anziano nell'area di programma. Avviato a ottobre scorso, il progetto Cross Care 2.0, strategie integrate condivise per la capitalizzazione del modello Cross Care, è cofinanziato con oltre 529.000 euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Questa mattina la presentazione a Sacile. Il progetto avrà la durata di 18 mesi e si concluderà il 31 marzo del 2025. Vedere il proprio abito più amato esposto in un museo, un sogno che a Trieste diventa realtà grazie alla nuova mostra che verrà inaugurata il 23 marzo a ITS Academy, il primo museo di moda contemporanea d'Italia, che invita i cittadini a partecipare. Sentiamo come. Ci mostra in anteprima in esclusiva qualche angolo della futura mostra ancora in allestimento, Born to Create, Barbara Franchin, Cuore e Anima di Itz Academy di Trieste, primo museo di moda contemporanea in Italia, che dal 23 marzo con due nuove esposizioni si trasformerà anche nel primo museo di tutti noi, perché con la mostra Le molte vite di un abito, un viaggio che esplora la nostra relazione con i vestiti, le loro storie, i cittadini avranno l'occasione di partecipare all'esposizione proponendo di esporre un proprio abito, quello più amato. Una selezione di vestiti verrà poi davvero esposta in una teca dove ora c'è l'abito restaurato di una triestina d'eccezione, l'ex Miss Italia e top model Alda Balestra, indossato al suo matrimonio nel 1990 e realizzato da Valentino, che per l'occasione glielo ha donato. A Barbara Franchin chiediamo perché partecipare. Bisogna portare il proprio abito amato, cioè quel pezzo di abbigliamento che abbiamo nel nostro armadio e soprattutto nel nostro cuore, con ricordi indelebili, per testimoniare che abiti di uso comune non devono essere di conlogui o con marchi, no? Perché mandarcelo? Perché lo metteremo in mostra. Faremo una selezione di tutte le proposte che riceveremo dai triestini, per cui l'immagine dell'abito più il racconto, lo storytelling, cioè perché è importante ed è amato questo abito, e noi faremo una selezione ed esporremo a turno gli abiti dei triestini, gli abiti più amati dei triestini. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina dello sport, calcio in Serie C, dopo 6 sconfitte e un pareggio, la Triestina ieri è tornata a vincere 3-0 squillante sul campo del Fiorenzuola, prima vittoria della gestione Bordin, una vittoria nella quale gli alabardati hanno sfoderato una prestazione convincente che mancava da tempo. Questa è solo la base di partenza, ha detto a fine partita il tecnico, che tuttavia ha rimproverato i suoi per le troppe palle gol fallite e ha ringraziato i tifosi. Tifosi che domenica dovranno di nuovo spostarsi a Fontanafredda, dove la Triestina, vista la perdurante indisponibilità dello Stadio Rocco, giocherà alle 18.30 contro l'Alessandria. Per il basket, in Serie A2 continua il momento difficile di Trieste, reduce dalla sconfitta sul campo di Latina, ultima in classifica. Ieri, sul periodo no della squadra, è intervenuto il presidente Richard De Meo, che ha parlato di un momento difficile e di un percorso che però dovrà essere valutato sul lungo termine. De Meo ha poi ribadito che l'obiettivo è arrivare ai play-off nella migliore condizione possibile e non ha escluso nuovi innesti dal mercato. Ha concluso chiedendo ai tifosi di supportare la squadra in questo cammino per superare questa fase. Le parole di De Meo lasciano però fredde le frange organizzate del tifo alabardato, che sempre ieri hanno diffuso online un documento in cui, pur esprimendo gratitudine alla proprietà per aver creduto e investito fior di milioni, affermano che in segno di dissenso verso le recenti mosse della dirigenza, nel prossimo match contro Treviglio, durante il primo quarto, diserteranno gli spalti per protesta. Nel frattempo, la PU Udine, sempre ieri, si è imposta proprio sul parquet di Latina per 81-72. A Tarvisio è la vigilia del Winter Trail, arrivato alla 7ª edizione. Quest'anno assegnerà anche i titoli mondiali Sky Snow, la specialità invernale della corsa in montagna. Sono iscritti quasi 600 atleti da una 30ina di paesi. Nei prossimi 2 giorni si disputeranno le gare per i titoli iridati. Domani la vertical sulla pista di Prampero del Monte Lussari, 3 km e 600 metri per quasi 1000 metri di dislivello. La partenza di gruppo sarà data alle 18:30 e si gareggerà dunque in notturna con le lampade frontali. Sabato è invece in programma la classica al Lago Superiore di Fusina, su un percorso di 15 km fino alle pendici del Mangart. La partenza in quel caso sarà data alle 14. Ora sono le 12:55, tutto per questa edizione che è stata realizzata da Daniele Lettige e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Vittoria Protti e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Samantha Gong. Prossima edizione alle 15. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.